ad alta voce. Lino Guanciale legge Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Traduzione di Ettore Capriolo. Assurdo, gridò. È questo il peggio per chi sta cercando di raccontare. Eccovi tutti qui, ciascuno ormeggiato con due buoni punti di riferimento, come uno scafo con due ancore, e un macellaio ad un angolo, un poliziotto all'altro, un appetito eccellente e una temperatura normale, normale, capite, da un capo all'altro dell'anno. E voi dite, assurdo, assurdo, un accidente, assurdo. Ragazzi miei, cosa potete aspettarvi da un uomo che, per puro nervosismo, ha appena gettato in acqua un paio di scarpe nuove? Ripensandoci, mi sbalordisce di non essermi messo a piangere. Di solito sono abbastanza fiero della mia forza d'animo, ma mi sentivo toccato nel vivo dall'idea di aver dovuto rinunciare all'inestimabile privilegio di ascoltare il degnissimo Kurtz. Naturalmente, sbagliavo. Il privilegio mi stava ancora aspettando, sì. Certo, lo ascoltai più che a sufficienza e avevo visto giusto. Una voce. Era poco più di una voce. E udii lui o lei, quella voce e altre voci. Erano tutti poco più che voci e il ricordo di quel periodo permane intorno a me impalpabile come una delle ultime vibrazioni di un immenso chiacchiericcio, sciocco, atroce, sordido, selvaggio o, più semplicemente, squallido, senza il minimo senso. Voci, voci, persino la ragazza. Ora, Marlowe restò a lungo in silenzio. Alla fine placai il fantasma delle sue doti con una bugia, ricominciò all'improvviso. Una ragazza? Quale ragazza? Ho parlato di una ragazza? Ma lei non c'entra per niente. Loro, le donne, voglio dire, sono fuori da tutto questo. Dovrebbero esserlo. Noi dobbiamo aiutarle a rimanere in quel bel mondo che è il loro, se non vogliamo che il nostro peggiori. Sì, sì, doveva esserne fuori. Avreste dovuto sentirlo, il corpo dissepolto del signor Kurtz, quando disse «la mia promessa sposa». Avreste capito subito che lei ne era del tutto fuori. E il nobile osso frontale del signor Kurtz. Dicono che i capelli a volte continuano a crescere, ma questo individuo era incredibilmente calvo. La foresta gli aveva dato un buffetto sul capo e sotto era come una biglia d'avorio. Lo aveva accarezzato e pronti, era avvizzito. Lo aveva preso, amato, abbracciato, era entrata nelle sue vene, aveva consumato la sua carne e sigillato il suo corpo al proprio con le cerimonie inimmaginabili di qualche diabolica iniziazione. Era il suo beniamino, viziato e coccolato. Avorio, lo credo bene, montagne d'avorio, cataste. La vecchia baracca di fango ne era colma, da far pensare che in tutto il paese non esistesse più né sopra né sotto una sola zanna. «Quasi tutto fossile», commentò il direttore con disprezzo. «Non era più fossile di me, ma lo chiamano fossile quando è stato dissotterrato. Sembra che i negri a volte seppelliscano le zanne, ma evidentemente non erano riusciti a seppellire questo lotto così in profondità da salvare il dotato signor Kurtz dal proprio destino. Ne riempimmo la stiva e dovemmo accatastarne un mucchio anche sul ponte». Egli poté così guardarlo e goderselo finché fu in grado di vedere, perché sino all'ultimo continuò a concedersi questo piacere. Avreste dovuto sentirlo quando diceva «Il mio avorio». Sì, certo io lo udii. La mia promessa sposa, il mio avorio, la mia stazione, il mio... Ogni cosa gli apparteneva. Trattenevo il fiato aspettando di udire la foresta scoppiare in un favoloso scroscio di risa che avrebbe fatto tremare al loro posto le stelle fisse. Ogni cosa gli apparteneva, ma questo era irrilevante. Ciò che importava era sapere a che cosa appartenesse lui, quante potenze delle tenebre lo reclamassero come proprio. Era questa la riflessione che ti faceva accapponare la pelle dalla testa ai piedi. Era impossibile, e non sarebbe stato neppure consigliabile, cercare di immaginarlo. Aveva occupato un seggio altissimo tra i demoni di quella terra, e lo dico letteralmente. Voi non potete capire. E come potreste? Con un solido pavimento sotto i piedi, tra vicini sempre pronti ad applaudirvi o a saltarvi addosso, voi che vi insinuate guardinghi tra il macellaio e il poliziotto, nel sacro terrore della forca, dello scandalo e dei manicomi, come potete immaginare in quali particolari regioni dei tempi primordiali i suoi piedi senza pastoie possano condurre un uomo sulla via della solitudine, di una solitudine totale, senza neanche un poliziotto, sulla via del silenzio, di un silenzio totale, dove non si può neppure udire la voce ammonitrice di un vicino gentile che si fa tramite sussurrante dell'opinione pubblica. Sono in queste piccole cose le grandi differenze. Una volta sparite, dovete ricadere sulla vostra forza innata, sulla vostra capacità di essere fedeli. Certo, può darsi che siate troppo sciocchi per finir male, o anche troppo ottusi per accorgervi che le potenze delle tenebre vi stanno aggredendo. Io sono sicuro che uno sciocco non ha mai fatto un patto col diavolo per la propria anima. O lo sciocco è troppo sciocco, o il diavolo è troppo diavolo, non lo so. Oppure può darsi che siate creature così strepitosamente elevate da essere ciechi e sordi a tutto, tranne che alle immagini e ai suoni celesti. In tal caso la terra per voi è solo un luogo di transito, e se questo sia un vantaggio o una perdita, io non mi azzardo a dirlo. Ma noi in genere non siamo né una cosa né l'altra. La terra per noi è un posto dove vivere, dove sopportare immagini e suoni e odori, e persino, per Giove, respirare carogne di ippopotami, per così dire, senza lasciarcene contaminare. Ed è a questo punto, capite, che entra in gioco la vostra forza, la fiducia nella vostra capacità di scavare semplici buche dove seppellire quella roba, la vostra capacità di devozione non a voi stessi, ma a qualche compito oscuro e massacrante. E questo è molto difficile. Io non sto cercando, badate, di scusare o anche solo di spiegare. Io sto cercando di giustificare me stesso per il signor Kurz, per l'ombra del signor Kurz. Questo fantasma di iniziato, comparso dal fondo del nulla, mi onorò delle sue sbalorditive confidenze prima di sparire del tutto. Questo perché con me poteva parlare inglese. Il Kurz originale aveva studiato anche in Inghilterra e, come ebbe la bontà di dirmi, le sue simpatie andavano dalla parte giusta. Sua madre era mezza inglese, suo padre è mezzo francese. L'intera Europa contribuì alla formazione di Kurz e apprese in seguito che, del tutto appropriatamente, la Società Internazionale per la Soppressione dei Costumi Selvaggi gli aveva affidato il compito di stendere una relazione per meglio orientarsi in futuro. E lui l'aveva scritta. Io l'ho vista. L'ho letta. Era eloquente, vibrante d'eloquenza, ma, secondo me, era troppo concitata. Aveva trovato il tempo di scrivere 17 pagine fitte fitte, ma doveva essere successo prima che i suoi nervi, chiamiamoli così, smettessero di funzionare e lo portassero a presiedere certe danze notturne che si concludevano con riti abominevoli, offerti, per quanto arrivai a capire con riluttanza da ciò che udii raccontare in varie occasioni, proprio a lui, capite? Al signor Kurz in persona. Era comunque un bel esercizio letterario. Il capoverso iniziale, tuttavia, alla luce delle informazioni successive, mi appare ora sinistro. Cominciava sostenendo che noi bianchi, per il livello d'evoluzione cui siamo arrivati, dobbiamo necessariamente apparire loro, ai selvaggi, degli esseri soprannaturali. Ci avviciniamo a loro con la potenza di una divinità, eccetera, eccetera. Con il semplice uso della nostra volontà possiamo esercitare un potere rivolto al bene praticamente illimitato, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché cominciava a volare e mi portava con sé. La perorazione era splendida, anche se mi è difficile ricordarla adesso. Mi dava l'idea di una immensità esotica governata da un'augusta benevolenza. Mi faceva fremere d'entusiasmo. C'era il potere sconfinato dell'eloquenza, delle parole, di parole nobili e ardenti. Nessuna indicazione pratica interrompeva il magico fluire delle frasi, eccezion fatta per una nota in fondo all'ultima pagina, evidentemente vergata molto tempo dopo e con mano malferma, che si potrebbe considerare l'esposizione di un metodo. Era molto semplice e a conclusione di quel commovente appello ad ogni sentimento d'altruismo ti esplodeva davanti, luminosa e terrificante, come un lampo in un cielo sereno. Sterminate tutti quei bruti, così diceva. Il fatto curioso era che Kurz sembrava essersi dimenticato del tutto di questo pregevole poscritto, perché più tardi, quando in un certo senso tornò in sé, mi implorò con insistenza di avere particolare cura del mio opuscolo, lo chiamava così, poiché era convinto che in futuro avrebbe influito in maniera favorevole sulla sua carriera. Ebbi tutte le informazioni possibili su tutto questo e in più, come si misero le cose, toccò a me alla fine aver cura della sua memoria. Per essa ho fatto tanto da guadagnarmi, se lo volessi, l'incontestabile diritto di gettarla perché vi riposi in eterno nella pattumiera del progresso, fra tutta la spazzatura e, in senso figurato, tutti i gatti morti della civiltà. Ma in realtà, vedete, io non posso scegliere. Lui non sarà dimenticato. Qualunque cosa fosse, non era un uomo comune. Aveva il potere, incantandole o spaventandole, di scatenare anime rudimentali in un esasperato sabba in suo onore. Sapeva anche riempire le animucce dei pellegrini di amare apprensioni. E aveva almeno un amico devoto. E aveva conquistato nel mondo un'anima che non era né rozza né contaminata dall'ambizione. Io no, non posso dimenticarlo. Anche se non sono disposto a sostenere che valesse realmente quella vita umana che avevamo perso avvicinandoci a lui. Perché mi mancava molto il mio timoniere. Mi mancava persino quando il suo corpo giaceva ancora nella cabina di pilotaggio. Forse vi sembrerà strano questo rimpianto per un selvaggio che non contava più di un granello di sabbia in un nero Sahara. Ma è che, capite, aveva fatto qualcosa. Aveva governato la nave. Io lo avevo avuto dietro per mesi, come un aiuto, uno strumento. Era stata come una società. Lui stava al timone per me e io badavo a lui. Mi preoccupavo per i suoi difetti e in tal modo si era creato un legame sottile di cui mi resi conto solo quando si spezzò all'improvviso. E l'intima profondità dell'occhiata che mi gettò quando rimase ferito mi resta ancora nella memoria, come la rivendicazione di una parentela lontana presentata in un momento supremo. Povero sciocco, se solo avesse lasciato stare quell'imposta. Non aveva freni proprio per niente, esattamente come Kurz, un albero che il vento fa oscillare. Appena infilato un paio di ciabatte asciutte, lo trascinai fuori, dopo avergli tolto la lancia dal fianco con uno strattone, operazione che confesso d'aver compiuto con gli occhi ermeticamente chiusi. I suoi talloni saltarono insieme sul piccolo gradino della porta, le sue spalle premevano contro il mio petto e io lo abbracciavo da dietro con disperazione. Oh, era molto, molto pesante, più di qualsiasi altro uomo sulla terra, immagino. E poi, senza altre formalità, lo gettai in acqua. La corrente lo agguantò come un ciuffo d'erba e io vidi rotolare due volte il suo corpo prima di perderlo di vista per sempre. Tutti i pellegrini e il direttore si erano intanto raccolti sul ponte di manovra, intorno alla timoniera, e stavano chiacchierando tra loro come uno stormo di gazze eccitate, e ci fu un mormorio scandalizzato per la mia spietata prontezza. Perché poi volessero tenersi attorno quel cadavere, io non so proprio immaginarlo, per imbalsamarlo forse. Ma udii anche un altro mormorio, molto più sinistro, sul ponte di sotto. Anche i miei amici taglialegna erano scandalizzati e in apparenza per ragioni più valide, benché a me sembrassero del tutto inaccettabili. Eh sì, certo. Avevo deciso che se il mio defunto timoniere doveva essere mangiato, se lo sarebbero goduto soltanto i pesci. Da vivo era stato un timoniere di qualità modeste, ma da morto rischiava di diventare una tentazione di prim'ordine e di provocare magari qualche inquietante pasticcio. E poi ero impaziente di prendere in mano il timone perché l'uomo in pigiama rosa si stava rivelando incorreggibilmente inadatto a tale compito. Lo feci appena finito il funerale. Procedevamo ora a velocità ridotta, restando sempre in mezzo al fiume, e io ascoltavo le chiacchiere che si tessevano intorno a me. Avevano dato per perso Kurz, avevano dato per persa la stazione. Kurz era morto, la stazione era stata incendiata, eccetera, eccetera, eccetera. Il pellegrino coi capelli rossi era tutto eccitato, pensando che, se non altro, quel povero Kurz era stato adeguatamente vendicato. «Ehi, dobbiamo averne massacrati un mucchio nella boscaglia, eh? Cosa ne pensate, eh?» Ballava letteralmente quel piccolo miserabile sanguinario che aveva rischiato di svenire alla vista del ferito. Io non seppi trattenermi dal dirgli: «Avete comunque fatto una quantità favolosa di fumo!» Avevo capito da come frusciavano e volavano via le cime degli alberi che quasi tutti i colpi erano finiti troppo in alto. Non si può colpire niente se non si prende la mira e se non si spara dalla spalla. E loro avevano fatto fuoco dall'anca e con gli occhi chiusi. La ritirata, sostenni, e avevo ragione, era dovuta ai sibili della sirena. Allora smisero di pensare a Kurz e cominciarono a urlare contro di me, protestando indignati. Mentre il direttore, in piedi accanto al timone, stava mormorando con sicurezza che bisognava, per ogni evenienza, spingerci parecchio più a valle prima di notte, vidi ad una certa distanza una radura sulla riva del fiume e i contorni di una sorta di edificio. «Cos'è quello?» domandai. Lui batté le mani stupito. «Ma è la stazione!» gridò. Allora accostai immediatamente, sempre procedendo a velocità ridotta. Servendomi del binocolo, vidi il pendio di una collinetta cosparso di radi alberi e del tutto privo di sottobosco. Sulla cima, un lungo edificio fatiscente era per metà sepolto nell'erba alta. Le grandi aperture sul tetto a punta ci guardavano nere da lontano. La giungla e i boschi facevano da sfondo. Non c'erano né recinti né staccionate. Ma sembrava che qualcosa un tempo ci fosse stato, perché vicino alla casa rimaneva ancora una mezza dozzina di paletti disposti in fila, sommariamente affilati e con le punte ornate di tonde palle intagliate. Gli steccati, o comunque quello che c'era stato in mezzo, erano spariti e naturalmente la foresta circondava tutto quanto. La riva del fiume era sgombra e sul bordo dell'acqua vidi un bianco con un cappello simile alla ruota di un carro che ci faceva segni insistenti con un braccio. Scrutando il limitare della foresta sopra e sotto, fui quasi certo di scorgere dei movimenti, forme umane che scivolavano in varie direzioni. Per prudenza mi spostai un po' oltre, poi spensi il motore e lasciai che il battello andasse alla deriva. L'uomo sulla riva si mise a gridare allora, sollecitandoci a sbarcare. «Siamo stati aggrediti!» urlò il direttore. lo so, ma va tutto bene!» gridò in risposta quell'altro, con un tono di grande allegria. «Venite! È tutto a posto! Sono felice!» Il suo aspetto mi ricordò qualcosa che avevo già visto, qualcosa di bizzarro che avevo visto da qualche parte. Mentre manovravo per accostare, mi stavo chiedendo: «Ma a che assomiglia quell'ometto?» Poi tutto a un tratto mi venne in mente. Assomigliava a un arlecchino. I suoi vestiti erano fatti probabilmente di tela d'Olanda marrone, ma erano coperti di toppe dappertutto, brillanti toppe azzurre, rosse e gialle, toppe sulla schiena, toppe sul petto, toppe sui gomiti, sui ginocchi, fettucce colorate intorno alla giacca, orli colorati sul fondo dei pantaloni, e la luce del sole lo faceva apparire estremamente gaio e meravigliosamente lindo, perché si vedeva quanto erano fatti bene quei rattoppi. Un viso imberbe da ragazzo, molto regolare e praticamente privo di lineamenti, un naso spellato, occhietti azzurri, sorrisi e cipigli che si rincorrevano sul suo viso aperto come il sole e l'ombra su una piana spazzata dal vento. «Attento, comandante!» gridò. «C'è un tronco che hanno piantato qui ieri sera!» «Cosa? Un altro tronco?» bestemmiai spudoratamente, lo confesso. Avevo quasi sfondato il mio macinino per arrivare alla fine di quello splendido viaggio. Dalla riva l'arlecchino alzò verso di me il suo nasino rincagnato. «Inglese?» domandò tutto sorrisi. «E lei?» gridai dal timone. I sorrisi sparirono e lui scosse il capo, come dispiaciuto per la mia delusione, ma poi si illuminò. «Non importa!» gridò in tono incoraggiante. «Siamo in tempo?» domandai. «È lassù!» replicò con un movimento del capo in direzione della collina, e poi improvvisamente si incupì. Il suo viso era come il cielo d'autunno, ora rannuvolato e un attimo dopo luminoso. Quando il direttore, scortato da tutti i pellegrini armati sino ai denti, salì alla casa, questo tizio venne a bordo. «Ehi, tutto questo non mi piace», dissi. «Ci sono gli indigeni nella boscaglia». Ma lui mi assicurò con convinzione che era tutto a posto. «E sono gente semplice», aggiunse. «Beh, sono contento che siate venuti. Mi ci è voluto del bello e del buono per tenerli lontani. Ma si è appena detto che era tutto a posto», gridai. «Oh, ma non hanno cattive intenzioni», disse. E poi sotto il mio sguardo si corresse. «Cioè, non proprio». Poi, in tono più vivace, «parola mia, la sua timoniera avrebbe bisogno di una pulita». E poi, immediatamente dopo, mi consigliò di tenere nella caldaia vapore sufficiente ad azionare la sirena in caso di guai. «Eh sì, un buon ululato vi servirà più di tutti i vostri fucili. Sono gente semplice, ripeto». Concionava ad una velocità tale da sopraffarmi. Sembrava che stesse cercando di rifarsi di lunghi periodi di silenzio e mi fece capire, ridendo, che era proprio così. «Ma non parla col signor Kurz», gli dissi. «Beh, non si parla con quell'uomo». «Lo si ascolta», replicò con austero entusiasmo. «Adesso, però...» Agitò un braccio e in un batter d'occhio piombò negli abissi più profondi dello sconforto. Ma subito dopo si riprese con un sobbalzo, si impossessò d'entrambe le mie mani e me le strinse in continuazione mentre blaterava: «Fratello, marinaio, onore, piacere, gioia, mi presento, russo, figlio di un arciprete, governatorato di Tambov». «Cosa? Tabacco? Tabacco inglese? L'eccellente tabacco inglese? Oh, questo sì che è un gesto fraterno! Se fumo! Oh, ma dov'è il marinaio che non fuma?» La pipa valse a calmarlo. E a poco arrivai a capire che era scappato da scuola, che si era imbarcato su una nave russa, che era scappato di nuovo, che aveva lavorato per qualche tempo su navi inglesi e che si era riconciliato con l'arciprete. Dava molta importanza a questo, ma quando si è giovani bisogna vedere cose, accumulare esperienze, idee, allargare la mente. «Qui?» lo interruppi. «Non si può mai dire, sa? Qui ho conosciuto il signor Kurz», disse, giovanilmente solenne e severo. E da allora tenni la lingua a freno. A quanto pareva, sulla costa aveva convinto una ditta commerciale olandese a equipaggiarlo con attrezzature provviste ed era partito per l'interno a cuor leggero e senza sospettare più di quanto avrebbe potuto un bambino ciò che rischiava di capitargli. Per quasi 2 anni aveva vagato da solo su quel fiume, isolato da tutto e da tutti. «Non sono giovane come sembro. Ho 25 anni», disse. «All'inizio il vecchio Van Scheuten mi disse di andare all'inferno», raccontò con intenso godimento, «ma io mi appiccicai a lui e parlai finché non cominciò a temere che a forza di chiacchiere arrivasse a consumare le zampe posteriori del suo cane preferito, e allora mi diede un po' di roba scadente, qualche fucile, e mi disse che sperava di non vedere mai più la mia faccia. È un caro vecchio olandese quel Van Scheuten. Un anno fa gli ho mandato un po' d'avorio perché così, quando tornerò, non potrà trattarmi come un ladruncolo. Spero che lo abbia ricevuto. E in quanto al resto, non mi importa. Ah, avevo fatto accatastare per voi un po' di legna. Quella era la mia vecchia casa. L'ha vista?» Allora gli diedi il libro di Towson e si comportò come se volesse baciarmi, ma poi si trattenne. «Il solo libro che mi fosse rimasto, e pensavo d'averlo perso», disse guardandolo estasiato. «Capitano tanti incidenti, sa, a chi va in giro da solo. A volte le canoe si capovolgono e a volte devi squagliartela di corsa quando la gente s'arrabbia». Sfogliò le pagine. «Ha preso appunti in russo?» domandai. E lui annuì. «Pensavo che fossero in uno strano codice», dissi. Rise, ma poi si fece serio. «Ho avuto dei problemi a tener lontana quella gente», disse. «Volevano ucciderla?» domandai. «Oh, no!» esclamò e subito si bloccò. «Perché ci hanno attaccati?» gli domandai. Lui esitò e poi disse con riluttanza: «Non vogliono che lui se ne vada». «Ah no», dissi incuriosito. Annuì con un cenno pieno di mistero e di saggezza. «Mi creda», gridò. «Quell'uomo mi ha allargato la mente». Spalancò le braccia e mi guardò con quei suoi occhietti azzurri perfettamente tondi.